non ho mai rubato, non ho avuto mai niente a che fare con la mafia. Cioè, sono vicende che poi col tempo cadono da sole . E magari si pretende che nel frattempo uno rimanga fermo 6, 7, 8 anni, quanto dura un cazzo di processo in Italia. E questo ovviamente non è giustizia. Ecco, questo no, no, per dire anche lo scateno De Luca, avete capito perché anche il linguaggio... Scateno De Luca è incazzato perché ha fatto... È abbastanza, però sa anche molti cittadini... E voglio dire anche che l'arresto mi è stato preannunciato allora dal presidente Lombardo, col quale mi sono scontrato definitivamente. Quindi è ovvio che sono scatenato e incazzato. Che vuol dire? Cioè che Lombardo sapeva già che l'avrebbe... Ah no, quando ci siamo litigati definitivamente, buon Lombardo mi ha chiamato, lui non è... Io non lo so se è mafioso e non me ne frega niente, questo lo accerterà la magistratura, ma chi agisce con metodi politico-mafiosi, io l'assicuro, in Sicilia lo sanno tutti, ah, e meno però. Male oggi andremo a dargli il cognato finale e se ne vada a fanculo una volta per tutte. Lui e i suoi compagni. Vabbè, insomma, questo è scateno De Luca e siamo in diretta, De Luca, glielo dico, no? Perché sappia la situazione che stiamo vivendo in Sicilia, no, di no, queste vabbè. Mafie che ci sono in Sicilia, che lo sappia l'intera Italia.